Questo file è stato scaricato dal canale Telegram Zodi 105 Channel. Per altro materiale, cerca su Telegram Zodi 105 archivio bot. Pronto! Pronto! Gongo! Pronto! Funziona! Non funziona! Pronto! Mi sente? Sì! Pronto! Salve! Non dipende! Salve! Come sta? Mazzari, l'ha trovato mio nipote! Non c'ho tempo! Non l'ha trovato! No! E lo vado a cercare, Mazzari! Tanto che cosa da fare lei? Lavoro io! Lei lavora! Lei non c'ha tempo di pensare a mio nipote Barnaba perché lei lavora! È lavoro! Ci ho mai parlato di... Sì! Ci ho mai parlato di... Della fabbrica! Ci ho mai parlato di... Sì! Ci ho mai parlato della di... fabbrica! Ci ho mai parlato... No, non della fabbrica! Di cosa? No! Ci ho mai parlato di quanto fa cagare! No! Ma è bastardo! Giba, non mandarli in onda sti rompipalle, per favore! Le 8 e 3 minuti, buongiorno, un bel buongiorno! 105, 105. Allora, tra poco apriamo lo spazio nuovo dello zoo, sì. Gioco al massacro, per insultare liberamente Leone di Lernia. Ciccio. Un uomo che in 64 anni ha rubato circa 5-6 miliardi senza mai muovere un dito. Mai! Dito mosso! Sì, te lo dico io dove. E a un certo punto avevo lì della roba da lavare, la misi dentro e cominciai ad intonare questo motivetto. Sì. E indovini un po' di che marca era la lavatrice? Della Whirlpool. Bravo. Guarda caso. Senta, davanti a me ho un sacco di critiche rivolte casualmente verso un programma televisivo che è costato circa 5 miliardi a serata. Sì. Radiografia di una crisi, Eminem per esempio, polemiche a non finire. Per l'invito di Eminem, il rapper bianco contestato per i suoi testi violenti contro gay, le donne, eccetera, eccetera. Ma alla fine sul palco nessuna trasgressione. Pensate che gli ascolti, appena uscito, erano a 14 milioni, dopo 2 secondi sono scesi a 12 milioni. Vuol dire che la gente, ma non si capisce la mazza di quello che dice. Sì, ma vabbè, ma ragazzi, neanche un semplicissimo vaffangoul, capito? Allora, innanzitutto io credo che l'abbiano fatto così per fare come al solito parlare, no? Esatto. Allora, in secondo luogo, 3/4 della popolazione italiana non capisce, diciamo così, non capisce neanche quello che dice, perché vuoi perché non sa l'inglese, e secondo perché lui rappa in una maniera talmente veloce in slang che è molto difficile anche capirlo per chi sa l'inglese, ma anche per degli americani, credo. Esatto. E in terzo luogo, voglio dire, Eminem non è che vede questi grandischi d'Italia come in America, che uno dice arriva Eminem, sembra che arriva Michael Jackson, il messia sulla terra. Mi scusi, poi hai ragione. Un'altra cosa, in Italia solo il 4% sono giovani, quindi. Bravo amore, ormai non esistiamo più, anzi noi siamo già vecchi, mi sa. Abbiamo 30 anni, noi quasi non abbiamo neanche un figlio. No, è una cosa principale. Io pensavo di farne uno con te, sai. Cosa c'è? La cosa principale, che questo è un demento, come dice Andy Band, come dicono loro. Eminem. È un demento. Non ce ne frega un cacchio a noi di lui, che viene da una brutta vita, è nato ancora. Ma basta, non ce ne frega a nostri demento. Ci sono tante persone che hanno vissuto peggio di lui. C'hai migliaia di miliardi, c'è gente che dorme alla stazione centrale da 50 anni e non hanno una lira. Ma sta lì in America, ce lo fregano tutti. Leone, scusami, ma che cazzo dici? Sta parlando di un'altra cosa. Questa è in demente, stiamo parlando. Eminem. Poi ci sono critiche verso Papi e Ceccarini che non fanno ridere. Queste non servono a niente. Papi ha detto: beh, se do fastidio me ne sto a casa. Poi gli ospiti, insomma, praticamente dicono che non c'è nessuno. Ma non esiste. Ramazzotti, Fiorello, forse ci sarà stasera. Ne frega cazzo. Ancora quei giochi. Poi aspetta, i titoli di testa, pensate, solitamente c'era scritto in testa proprio al programma, Rai e Comune di Sanremo, stavolta invece è apparso prima il nome della Carrà. Sì, quindi vuol dire assumersi una bella responsabilità. Infatti, ma è tutta visto. Carrà, vedi che è tutta Carrà, Carrà. Vabbè, Carrà. Ma noi parliamo d'altro, parliamo invece dei nostri problemi. Ah, perché noi abbiamo un programma che ogni mattina dalle 7 alle 10 ci massacra gli ascolti. Diciamo così, vi fa le scarpe, ragazzi. Sì, ma altro che proprio, ci fa anche le donne, mi sa, Paolone. Soprattutto, ragazzi. Questo programma si chiama Cereali a colazione ed è condotto da un disjockey molto famoso, si chiama Paolone Fagiolone ed è famoso per l'altezza, l'altezza, sì, e la larghezza. Sì, ma anche la sua simpatia, perché fa veramente ridere. E allora colleghiamoci con la mia radio, Radio GB Network, l'unica radio che si sente in tutto il sistema solare. Perfetto, grazie. Da Radio GB Network, cereali a colazione. Buono dia. Ottimi anche questa mattina, siamo sempre qui. E questo è l'applauso dei nostri patatosi, sì, che fedelissimi si svegliano belli allegri e belli svegli con noi. Oh, mi mi piaci. No, E questo era un omaggio perché si avvicina a Sanremo. Ma cosa? Ed è giusto che noi parliamo di San Jimmy, l'unico vero festival esistente al mondo. Bravo. Ma noi siamo qua per dare un bel risveglio, bello allegro, bello sveglio ai patatosi. Sì. Ed è per questo che abbiamo il nostro cabarettista di fiducia che ci racconta la barzellettina per farci trasformare la giornata bella allegra, bella sveglia. Riccardo Fester, esci dalla bara. Ma il comico è la sigla della Carbone. Spettacolo. Ottimo, ottimo. Allora Riccardo, sei pronto per la barzellettina? Vai Riccardo Fester. Sai perché il televisore è un elettrodomestico alla mano? No. Perché è 16 pollici. Fa ridere. Ma non fa ridere. Ma che polizia? Cosa? Cosa? Schifo. Ma non faceva ridere. Stai calmo, patato. Sentilo. Patato. Non posso suicidarsi. Paolo! Paolo, aiuto! Cosa? È successa una cosa bruttissima, Paolo. Ottimo. È successa la cosa più brutta della mia vita. Cioè? Ottimo. Ho riso talmente tanto che la pelle di tutto il mio corpo si è staccata ed è andata via. Sono rimasto soltanto con lo scheletro. Paolo, quanto ridere. Mi fai tanto ridere. Sì. Ottima la risata che ti fai la mattina. Sì, guarda, io non ho mai riso così tanto in vita mia. Nemmeno se facessero uno spettacolo, che ne so, Aldo, Giovanni e Giacomo insieme a Beppe Grillo. Tutti insieme non mi farebbero ridere come te. Vip il chip. Indovina chi? Abbiamo rinchiuso nel sacchetto di patatine. Dai. Dai, genio. Allora, il personaggio di oggi fa parte di un quartetto. Il quartetto si chiama Premiata Dita. Sì. Ho già capito chi è. Aspetta. Allora, sì, lui si chiama Pino. Sì. Sì. Dai, mi facile. Devi dare il cognome. Ho già capito chi è. È per caso quello che l'altra sera era su Italia 1 nel Grande Fratello VIP con quel panzone di Costanza? Bravo, bravo. Ottimo. Ed è sposato con una ex velina che si chiama Roberta Lanfranc. Che ridere. Paolo, che ridere. Scusa, ho visto passare il mio corpo in questo momento. Corpo, torna indietro. Corpo. Allora, mi sai dire il cognome di questo attore? Ha morso la patatina allegramente. Dai, Pino. Pino. Dai. Dai. Pino. In... È per caso. Dai. È per caso. Dai, Pino. È perché Pino. È facile. Pino, premiata ditta. È per caso. Dai. È per caso Pino Master Flash. Ma Paolo. Ma vai a fango. Ma dai. Ma non l'ho vinto, ma cosa? Ma si può? È l'unico ascoltatore che ha e canna tutti i giorni. È scandaloso, ragazzi. È veramente scandaloso. No, no, è scandaloso che questo gioco sia impossibile, ragazzi. Ma cosa? Sei un pazzo. Togli un po' la base, se ne capisci un cacchio. So che andavamo in ottavo stanotte, ma... Sarà andato come minimo a puttano sta. Sto facendo un orge in campo. Come si chiama l'albergo, Giba? Ah, non c'è il, non c'è il nome. Discaricus. Discarico. Ma è solito? Non lo so. Quello ha una stella e mezzo pagato dalla radio. Il cellulare è spento. E in albergo vedo che lavorano tanto, eh? Sì. Ma è giusto il numero? Sì, è giusto. Uguale. Sono uguali i numeri? Beh? Niente. Buongiorno. Ah, buongiorno, senta, è Radio 105. Sì. Stiamo cercando il vomito umano, Leone di Lernia. Ci può passare la sua stanza, per favore? Leone di Lernia, a quest'ora? Sì, non si preoccupi. No, non mi preoccupo. No, vediamo, anzi... Leone. Non è che lui è un leone, magari arriva qua e mi mangia. No, non si preoccupi. È collegato a un telecomando, possiamo autodistruggerlo. Mi passo la camera. Grazie mille, buongiorno. Questo è il 5 Stelle, te lo dico io, il bastardo. Non puoi mixare tutto, Gibba. Vado lì a fare 8000 televisioni. Sì. A dormire. Quel ciccio, ma è un bastardo. Per andare a far cosa? È pieno di telecamere, devo fare le interviste. Sì, io voglio fare interviste. Pronto? Sì. Sì? Chi è? Tato! Ui, ciao Marco! Madonna! Che cazzo ci fai in stanza con Leone? Stavo dormendo in questo momento, aspetta che ti passo le ore. Datamelo soldi. Per risparmiare. Datamelo soldi. Oh, testa di corno. Allora? Allora, meno male che ci devi svegliare tu stamattina, eh? Lo so, mi dovevi svegliare, stiamo andando a dormire alle 6 perché è casino dappertutto. Sì. Qui la. Una cosa schifosa. brutto proprio, schifoso. È brutto? Brutto. Cosa hai fatto ieri sera? Raccontaci. Lui ieri sera è successo un casino della Madonna. Cioè? Ieri sera siamo andati lì addirittura all'Ariston. Eh? E c'era un bordello, che gente incacchiato che si lamentavano di Sanremo, che non c'era niente, non si capiva. Però c'eri tu e quindi è cambiata un po' la situazione, eh? C'eri tu e quindi è cambiata un po' la situazione, vero Leo? No, non è che è cambiato, c'ero io e c'era più casino perché sai, tutte le telecamere, tutte le interviste, tutte le radio. Però cose. È strano Leo, perché c'è scritto Fiorello su tutti i quotidiani, in caratteri cubitali, ma Leone non è proprio citato, eh? No, Leone era in gabbia. Sì, ascolta, infame. Dimmi. Dai, buttati giù dal letto, devi andare a fare interviste per noi oggi, ok? Sì. Un bel messaggio agli ascoltatori, visto che oggi mancherai. Beh, per adesso che sono ancora addormentato, un piccolo vaffanculo. No. Leo, ma... ti devo dire una cosa. Cosa? I fiori non sono di Sanremo, i fiori. Ma arrivano addirittura da Miami. Ma veramente? Ti giuro. No. Non sono i fiori di Sanremo, ma sono da Miami. Quanto li hanno pagati? A metà prezzo, lo sai, no? Si erano morti quei fiori di Miami, hanno portato qua. Leo, te lo sei bombato tanto, visto che è in camera con te? No, non si può bombare tanto. Perché? Perché datemelo lo soldo. Leo, ci sentiamo dopo, amore. Ciao, grazie. Ciao, vaffanculo. Ciao. Datemelo lo soldo. Vabbè, tra poco ci colleghiamo con il Teatro Mulinex di Grattosoglio, dove ieri sera c'è stata un'altra serata con il Festival di San Jimmy. Giorgio, vero Giorgio? Sì. Ma in realtà tu lo sai, Giorgio, che noi non siamo da soli, Giorgio. Sì. Siamo sempre in compagnia della scossa di Arnold. Non c'è la voce. Questo è lo Zoo, buongiorno Italia. Madonna, sono morto. Ieri sera mi hanno fatto mangiare come un maiale. Cosa hai fatto ieri sera? Sono andato a cena con degli amici, quelli con cui ero andato in vacanza. Ah, quelli che ti... Ma che cosa? Hai tirato poi l'acqua quando sei andato a casa? Sì, che palle, oh. Sai che lo sapevano tutti? L'hai detto alla radio. I miei amici: ah, ma allora hai dimenticato di tirare l'acqua l'altra mattina? Bravo. E detto sì, ho fatto il water con stucco veneziano. Sai l'effetto stucco veneziano? Ah, come stanno facendo qua. Sì, esatto, solo che la vernice non era vernice. Però era fresca. Sì, hai voglia. Allora, facciamo una cosa. Visto che tra poco ci colleghiamo con il Festival di San Jimmy, se volete andare al Festival di San Jimmy con un mezzo nuovo, innovativo, che allarga gli orizzonti, compratevi un Jimmy Van. Mio fratello dice che quando porta la fidanzata in camporella, dietro stanno stretti. Digli comprarsi un Jimmy. Mia sorella dice che quando viene messa a cane dal suo amante, si lamenta perché non c'è abbastanza spazio per muoversi. Digli comprarsi un Jimmy. Mio fratello dice che quando fai festini con gli amici di notte con quattro Susanne pescate in discoteca, dietro il van loro non si fanno pinzettare neanche morte. Digli comprarsi un Jimmy. Mio fratello dice che a Natale, quando invita 700 parenti a pranzo, si sta stretti a tavola nel van. Vieni comprarsi un Jimmy. Mio fratello dice che è stanco della vita se non cambia il suo van al più presto. Tuo fratello ha rotto i coglioni. Jimmy Van, il van che allarga i tuoi orizzonti. Minchia se li allarga. Basta. A fra poco. Sì. C'hai ragione tu, Siria. Sì. Direttamente da un festival che non ha fatto parlare di sé perché era veramente definito da tutti un appuntamento allegro e divertente. Un plagio, Madonna, unico, totale. Beh, avete visto ieri, insomma, Striscia la notizia, poi l'ha fatto vedere a Blob al TG5. Staffelli di Striscia si è beccato le mazzate dai Sottotono. Ma per favore. Ma perché? Dai. Adesso sì che ci sta dentro anche lui. In ospedale, però. Esatto. Buongiorno, venerabile. Salve, ragazzi. Salve. Come sta? Bene, ragazzi, non posso parlare se non metto la sigla io. E metta la sigla, la metta. Il Festival di San Jimmy vi è offerto da Jimmy Motor, È un peccato Corporation e da La Brizzolato Incorporated. Sì. Festival di San Jimmy. Festival di San Jimmy. Festival di San Jimmy, in esclusiva su Radio 105 e in contemporanea su Radio Jimmy Network. Venerabile. Salve, ragazzi. Buongiorno, come Salve. Sta? Bene, ragazzi. Provi ad annusare l'aria, provi. Senta, ma è vero che stamattina si respira aria buona? Madò, si sta da dire. Abbastanza. Un miracolo, veramente. Capitasse tutti i giorni che c'è il Festival di Sanremo, così questo se ne va. Madonna. Vabbè, un miracolo è arrivato. Adesso magari arriverà anche il secondo, no? Cioè? Che lei magari diventa guardabile. Ma cosa? Oh. Vediamo. Senta, ieri sera è successo di tutto al Festival di San Jimmy, perché sto guardando i risultati. Sì. Allora, Maurilio è passato al secondo posto. Sì. Sergei Donatello ha guadagnato 608 punti. Sì. Contro Maurilio 362, seguito da Lionel Lerci con 130 punti. E quindi le votazioni, la classifica è strana. Uno può passare in testa e può arrivare ultimo anche nell'ultima serata, lo sa, no? Sì, certo. Io guardi, giuro, succede qualcosa stasera nel festival di Truccato come l'anno scorso, io vengo lì e faccio un casino. Allora, innanzitutto ci sono delle motivazioni particolari. Sì. Allora, il Festival di San Jimmy, sì, al contrario del Festival normale, purtroppo della serata del sabato, cioè purtroppo, per fortuna la serata del sabato non va in onda. Ma come non va in onda? C'è un problema grave, ragazzi. Cioè? Devo uscire io. Ma cosa? E quindi non posso andare a condurre il festival. Ah, e quindi ho pensato di spostare l'ultima serata, la domenica, sì, quest'anno, la domenica sera, no? Sì. Di modo che tutti sono a casa tranquilli, eh? Loro famigliole, sa, sabato sera la gente esce. E noi quando la trasmettiamo? Per lunedì. Radio? Lunedì? Lunedì mattina noi trasmetteremo la finale con tutti i colpi di scena relativi, perché sa, la serata finale è sempre piena di colpi di scena. Vabbè, diamo l'indirizzo per votare intanto: www.survater.net, in internet o tramite fax 02655245. E allora sa cosa facciamo noi? Dica. Prendiamo la palla al balzo. Prego. E andiamo a sentire colui che è in testa al Festival di San Jimmy. Ma non mi piace questo qua, parla di un problema che un po' mi fa sentire coinvolto. Non lo so. Uguale, diciamo. Lo so, però purtroppo c'è anche lui in gara. Dai, sentiamolo. Da quando sono al mondo e giro per la città. È una zona. E tutti quanti ridono e dicono: guarda quello là, è un naso gigante grosso come la Torre Eiffel. Sembra un camion, un pullman o un enorme grattacielo. Sei una zona. Quando sono in giro per la città. Mi scambia per uno scherzo di carneval. Quando faccio le donne le mando tutte all'ospedal. E poi a casa le pippe io mi devo sempre far. Sei una zona. Mi dicono tutti che c'ho il nasone. Sei una zona. No, giù. Carina però, eh? Allora. Dai, dica il nome! Dai, non posso. Dai! Non posso dirlo. Le dico solo che i testi sono praticamente quasi tutti censurati. Sì, ragazzi. Vabbè. Here we go again. Certo. Per esempio adesso bisognerà fare i numeri di telefono senza lo zero. Sì. Ieri tutti provavano, infatti oggi cellulari senza zero, falsa partenza in mezza Italia. Infatti pare che buona parte dei 21 milioni di clienti TIM ieri non abbia, diciamo così, potuto usare bene il cellulare perché c'erano dei problemi con quelli della TIM, però, no? Sì, quelli della TIM. No, Omnitel no, a quanto pare no. E beh, forse Omnitel, sai, sponsor di Sanremo. In più c'è Megan Gale che è lì a Sanremo. Sì. Non poteva fare. Pensa che è lei che ti risponde al telefono se hai bisogno. Sì, certo. Sì. Allora, attenzione, ci colleghiamo con Canal Jimmy, vero venerabile? Sì, ragazzi, perché non c'è solo il festival. No. Anche se quest'anno con la regola nuova che abbiamo inserito, che anche un ospite internazionale proveniente da fuori può vincere Ma non è possibile! Sì. Pensi che anche l'ospite che arriva l'ultima serata e canta l'ultima serata, se è votato dalla gente può vincere il festival. Ma non è possibile! Sì. Ma dai, ma che regola è? Ma perché è giusto dare spazio a tutti, ragazzi. Ma cosa? Arriva Pinco Pallino, alla fine della trasmissione vince. Se lo votano tutti lui può vincere. Ma per favore! E così ci sarà un Pinco Pallino qualsiasi che avrà vinto il festival. Ma sì, no, certo. Quello l'hanno deciso 8 mesi fa, secondo me. Quello è già studiato al tavolino. Senta, colleghiamoci con Canal Jimmy perché c'è un'altra puntata di Finta TV. Canal Jimmy presenta Finta TV. Video amatoriali sulla vita della specie animale chiamata Leone di Lerna. Ci troviamo nel tempio del cinema, a Hollywood, dove da decenni vengono prodotti i più famosi capolavori cinematografici. Un video amatore, il signor Lonnie of Lerd, sta riprendendo le scene di un importante film che stanno girando in mezzo alla strada. Ricordi tutto? Madonna, fatemi riprendere, sì, così quando vado a casa faccio vedere a Nena Rosa l'anteprima del film che sto facendo. Sì, però house, che casino, c'ho un male di pancia, che cosa mi stava nella... Nella scena principale del film, la famosa attrice Catherine Puzza-Jones deve dare l'addio al suo fidanzato, Michael Fox, che la lascerà per sempre. Oh, rotto bastardo, come hai potuto? La situazione è molto tesa. Le telecamere riprendono la scena più drammatica del film e gli attori non sbagliano neanche una battuta. Sì. Ma nessuno della produzione si accorge che vicino ai microfoni c'è il video amatore Lonnie of Lerd, che per sbaglio si scarica dei gas eccessivi che ha in corpo. Ho trovato il posto giusto. Madonna, mai. Qui c'è un'angolina. No. Qui dietro. No, ce ne sei ancora un altro. Porca miseria. Nessuno si accorge di nulla, se non qualche mese dopo alla prima del film, dove nel bel mezzo della scena più importante si ode un rumore fuori dai copioni. Dalla voce il tuo spirito! Io voglio lei! E tu me l'hai ammazzata! Nemmeno in montaggio se ne erano accorti e il film, costato 400 miliardi, è totalmente da cestinare. No! Rivediamo a rallenti il momento in cui Lonnie of Lerd si avvicina ai microfoni e scarica. No. C'è un'angolina. Ecco, dorretto, qui dietro. No, ce ne sei ancora un altro. No. Porca miseria. No. Basta. Ma schifo fa, Cioè questi stanno girando il film, lui è lì a riprendere. Sai che questo non me la ricordavo, è fantastica. Beh, insomma, la redazione di Canal Jimmy quando si impegna butta giù delle belle idee. Peccato che il film era suo. Il Festival di San Jimmy vi è offerto da Jimmy Motor, È un peccato Corporation e da La Brizzolato Incorporated. Festival di San Jimmy. In esclusiva su Radio 105. Sì. E in contemporanea su Radio Jimmy Network. Buonasera, pezzetti. Buonasera a tutti e benvenuti alla serata finale del Festival di San Jimmy, il primo festival della canzone interplanetaria. Grazie. Questo pubblico composto solo da donne, strano. Volevo dire una cosa, allora, siccome la nostra madrina, Catherine Zeta Jones, non è potuta venire perché ha avuto un attacco di diarrea da incubata con la cintura di sicurezza al water, abbiamo dovuto trovare una madrina, diciamo così, di riserva. Sì. Ma non è di riserva perché lei di riserva ha solo un po' di fori. E quindi siamo pronti a presentarla, eccola qua, scende dalle scale, solo per noi, la nostra fantastica, super soffocata Susana Lilli Rossetti. Ma dai. Buonasera Jimmy, buonasera a tutti. Ecco, vediamo questo vestito. Bello questo vestito, come mai c'è solo una riga in mezzo e basta? No. Sei praticamente nuda. Ho pensato che potesse piacerle. Ah, va bene, ok. Allora senti, tu sei stata presa e vieni pagata perché devi annunciare i primi tre classificati. Mi fai il favore di annunciare il primo o no? Questo che c'è scritto qui, ovviamente. Brava. Allora, al terzo posto si classifica Donatello con la canzone Naso. Ma vieni! Madonna. da quando sono al mondo e giro, giro per la città. E tutti quanti ridono e dicono guarda quello là, è un naso gigante grosso come la Torre Eiffel. Sembra un camion, un pullman o un enorme grattacielo. Sei un nasone. Quando sono in giro, in giro, in giro per la città. Sei un nasone. E la gente mi scambia per uno scherzo di carneval. Quando faccio le donne le mando tutte all'ospedale. E poi a casa le pippe io mi devo sempre fare. Sei un nasone. Mi dicono tutti che c'ho un nasone. Sei un nasone. Ecco un risultato a sorpresa. Sì. Nessuno se lo aspettava. Terzo. Andiamo, facciamo una piccola pausa per voi pezzenti. Regaliamo 7.000 miliardi a casa agli ascoltatori. Oh, e ci sentiamo tra poco in diretta da Gratosoglio, dal Teatro Mulilex, per i prossimi di San Jimmy. È vero, Lilli? È vero, ma adesso commercials. Festival di San Jimmy. Festival di San Jimmy. Festival di San Jimmy. In esclusiva su Radio 105 e in contemporanea su Radio Jimmy Network. Beh, sei arrivato terzo Donatello, secondo me arriva primo. Quella pagata, per me ha pagato. Ma che cosa? Com'è andata Sanremo invece? Sanremo è andato benissimo, soltanto che come dicevo che hanno raddoppiato i costi, sai, i costi di Sanremo l'hanno raddoppiato. Invece gli ascolti quest'anno sono stati di 8 milioni in meno. Madonna. Poi hanno picchiato Peppino Di Capri perché lui cantava una canzone piove, piove, piove, c'è stata una settimana di acqua in meno. Hanno ragione. Beh, però diciamo che rispetto agli altri festival tu ti sei divertito di più, abbiamo saputo, no? Mi sono divertito abbastanza perché avevo una bella donna, avevo Mirri da braccio, che quella abbracciava tutto, tutto quello che vedeva abbracciava. E ha abbracciato anche il tuo piccolo attrezzo sessuale. Piccolo attrezzo, è stato due ore lì a stare. Ma cosa? Jimmy, buongiorno! Un po' mi dispiace avere scartato Elisa da San Jimmy. Ma cosa sta dicendo? Le dico la verità. Non avrebbe mai partecipato una brava come Elisa anche al suo perché festival. Sapendo che la sua canzone è stata ispirata, diciamo, al mio viso, a un autoritratto che lei ha in casa. Ma cosa sta dicendo? Cos'è? Luce tramonti a nord-est. Lei ha un mio autoritratto in casa sua, no? Sì. Praticamente me lo sono fatto da solo. Io sono come le. Sono come se ha un autoritratto, se l'è fatto da solo per forza. Sono come Leonardo da Vinci. Da Vinci. Da Vinci. E quindi un po' mi dispiace che insomma alla fine la giuria, diciamo così, di qualità l'ha scartata nel pre-festival di San Jimmy. Però sono contento che ha vinto nel festival minore, naturalmente. Sanremo, sì, esatto. Beh, quest'anno mi sa che è veramente il festival minore, perché ha avuto meno ascolti di 105. Senta, che facciamo? Ci ricolleghiamo per sentire chi è arrivato secondo a San Jimmy? Sì, anche perché ci sono dei colpi di scena non indifferenti, anche perché sapete che il festival della canzone temporanea riserva sempre delle grandi sorprese, no? Allora, ricordiamo per quelli che hanno acceso la radio adesso, siccome dalle 7 alle 8 la gente accende un minuto sì, un minuto no, poi va a farsi la barba, eccetera. Donatello è arrivato terzo. E tra l'altro, ricordatevi che nell'ultima serata, quella che vi stiamo facendo ascoltare, c'è stato l'ospite internazionale che poi sentiremo a grande richiesta. Ecco. Ma ho saputo, ho letto sui giornali che poi a un certo punto, dopo la premiazione, dopo il festival, è entrato un pazzo urlando. Ci sono stati dei tafferugli. È entrato urlando: ah, il festival è truccato, qua e là. Pensava di essere a vedere una partita di calcio, invece non ha capito niente. Vabbè, sentiamo, dai, sentiamo la seconda parte. Siamo in Eurovisione? Sì, siamo in Planevisione. Plane sarebbe? In tutto il pianeta. Il Festival di San Jimmy vi è offerto da Jimmy Motor, È un peccato Corporation e da La Brizzolato Incorporated. Festival di San Jimmy. Festival di San Jimmy. Festival di San Jimmy. In esclusiva su Radio 105 e in contemporanea su Radio Jimmy Network. Grazie, grazie! Allora, ragazzi, è vero che siamo ormai agli sgoccioli di questo festival. Un festival che ha avuto 7.000 miliardi di milioni di trilomiliardi, di super miliardi di telespettatori. Ma chi? Grazie al pubblico in sala. Sono praticamente, abbiamo una sala gremita, abbiamo 3.000 donne Susanne tutte nude. Le ringrazio per essere intervenute. Ed ecco scendere dalla scalinata, possibilmente senza ammazzarsi, la nostra valletta. Vi ricordo che Katri Zeta Johnson è potuta venire per un attacco di diarrea. No. È rinchiusa in uno space shuttle attaccato al water. Ecco voi. col secondo cambio della serata, la nostra fantastica Lilli Rossetti. Eccomi, eccomi. Brava. Eccomi. Buona. Brava, brava. Allora, senti, ricordando che quest'anno al Festival di San Jimmy le canzoni si potevano cambiare in corsa, e ricordando anche che gli ospiti internazionali, interplanetari, possono vincere il festival anche all'ultimo momento, ti prego di dirci il secondo classificato al Festival di San Jimmy 2001. Vai! Allora, per tutti quanti, il secondo classificato di questo Festival di San Jimmy è Maurilio. No! Con la canzone di Viagra e Sofoclone, Wendy dirige il maestro Pennello. No! E permessi. E permessi. Ho aspettato tutti la viti per cercare l'animi gemelli. Ce l'avevi vicino a me. Era lì, era Wendy. Era Wendy, era Wendy. Era Wendy. Mi dicevi son fidanzati, ma io non ci credevi. Mi son presi il pilloloni e l'ho bombati con passione. Era Wendy, che Wendy, Wendy. Bravo, bravo. Consegna il premio a Maurilio Lili Rossetti, eccolo qua. Portagli il fallo d'oro. No! Il premio secondo classificato, grazie. Eccola qua. Allora, tra poco scopriremo la numero uno, ma soprattutto avremo il nostro ospite interplanetario, un rapper che viene da New York, un rapper che dice delle parolacce, sì. Sarà una canzone molto bipata. Cara Lilli, lanciami la nostra pubblicità, nella quale regaliamo 7.000 miliardi a ogni pezzente all'ascolto. Ma cosa? Adesso pubblicità. Ecco, fammi un soffocotto, vieni, vieni, vieni. Festival di San Jimmy. Dai. Festival di San Jimmy, in esclusiva su Radio 105. Cosa succede? In contemporanea su Radio Jimmy Network. Sfruttali, sfruttali questi momenti, dai. No. Dai, vieni su da lì, dai. No. Anche durante il festival. Oh, però c'è da dire una cosa sul Festival di Sanremo. Elisa bravissima, ma non far le interviste. Madonna. Non parlare. Canta e basta. E sono contento. E mi piace vincere. Osserva il suo stile al volante e capirai che amante ha letto, no? Ouch. Per esempio, dice, allora, puoi scoprire se sei nervoso, prudente o rilassato in base a come guidi la macchina. Riescono a capire come sei a letto anche. Allora, aspetta, partiamo dall'aggressivo, ok? Ovvero l'uomo che guida con la mano sul clacson e minaccia di travolgere tutti, ok? Questo esemplare di maschio è poco premuroso con la sua donna e per di più ha un costante bisogno di ricevere complimenti per la sua abilità di amante. Ok. Raccomandato a tutte le donne che amano essere fan sfegatate del proprio partner. Cioè, questo della serie, mentre trova lei, ah, come sei bravo, oh, come sei bello, come sei dotato. E suona il cazzo. Poi aspetta, c'è il sapientino, è quello che crede di essere sempre nel giusto e che ha sempre qualcosa da insegnare agli altri, sì. Alla guida, cioè della serie, guarda che pirla, quello non sa guidare, eccetera eccetera. Anche se all'inizio può sembrare interessante, è meglio fare attenzione. Il sapientino sotto le lenzuola è velocissimo perché il sesso per lui è anche un lavoro. Hai capito? Beh, Leone qua. Aspetta, prima le leggiamo tutte, poi mi dici chi ti senti, va tu, bene, Poi segue il tranquillo, che è quello che non corre mai, è rilassato ma deciso ad arrivare al punto, è una persona sicura che vi parla mentre guida, mi sa che vi parla anche mentre bombate. Aspetta, e non vi nega un sorriso neanche quando è al volante. Piace a chi ama le relazioni stabili. Quindi un tranquillo, non è di fuoco, diciamo così, però è uno che ama, diciamo, le storie serie, no? Passiamo al corridore. Allora, guida col piede a tavoletta sull'acceleratore, si sente il padrone della strada. Il corridore è un amante dall'ego smisurato e pensa di sapere sempre cosa sia meglio fare. Anche sotto le lenzuola dà per scontato di conoscere le cose che piacciono alle donne, ma naturalmente si guarda bene dal chiederglielo. L'amante ideale per tigri del materasso e le dominanti dominatrici in genere. Che cos'è? Un circo. L'ultimo, lo psicolabile o schizofrenico. È quello che cambia corsia ogni 100 metri. Sì. Non si sa come, finisce sempre in quella più lenta. Beh. A letto cambia spesso compagna, non riuscendo a capire bene chi soddisfi i suoi bisogni. Può soffrire di eiaculazione precoce e di ansia, difficilmente si lascia andare. Un vero e proprio monumento alla sveltina, che può piacere quando le prestazioni non sono compromesse dalla fretta. Allora, ed ecco a voi bravo. L'esempio di psicolabile o schizofrenico. No. Io ho tre qualità di macchine, no? Dai, sentiamo. Quando vado lì nella corsia del, diciamo, si rallenta, la corsia che si rallenta, c'ho una donna che lì devo stare tranquillo mentre io guido. Hai capito? Sì. Allora io devo guidare pensando a fare... Capito? Sì, capito cosa voglio dire? Poi qua. Non ho capito. Non posso dire, figuriamoci, sto guidando una borsia di emergenza, allora lì la donna significa che stai facendo qualcosa di brutto. Sì, sì. Hai capito? Mm. O vuoi che te lo tiro fuori, lo faccio vedere? No! Appunto. Poi c'è quella veloce, è vero. Quella, quando guido un po' veloce, io sono veloce a guidare. A letto sono ancora più veloce. Questa è la fregatura. Infatti tu sei il Ferrari del sesso, Leone. Sì, no, sì, il Ferrari sei il Ferrari Modena, come si chiama? Il 300... No, 390, 300, come si chiama? No, 300, non è 300. Modena 300. Moda 300. No, 360. Quello che ha il motore che si vede? Sì, quello là, quello là. È lui. Quello va a 300. Quando faccio l'amore va a 390, ancora più veloce. Quindi ragazzi, adesso, onestamente, qual è stato il rapporto più lungo che hai avuto nella tua vita? Di durata? Beh, diciamo di cornice un'ora. Diciamo di, come si dice? Preparazione. Preparazione, sì, diciamo, tu mettiti così, mettiti con l'altro. No, latto, latto proprio. Latto sono sempre quelli là, massimo 15. Secondi o colpi? No, colpi. Però più di quello non puoi andare. Ma che velocità, Leone? Comunque... Sei in, non so, in prima o in sesta? Ma io ti dirò che sono sempre sulla terza. Sulla terza. Sulla terza. Perché se metto la quinta, ci vengono due minuti. Ma vi rendete conto? Jimmy, lei invece quanto dura mediamente in un rapporto? Come si può definire lei? Ma guardi, io non ho problemi di marce, no? Sì. Nel sì, senso sì. Che ho altri problemi di marce, nel senso che a me la prima mi dura 7 ore. E la sesta? La sesta dura dalle 27 alle 28 ore. Ma lei ha il cambio Catstronic? No, io cambio automatico. io cambio da solo in corsa. Sì, ho capito. Ha capito? Va bene, qui invece c'è qualcuno che ha la retro che sgrana ogni tanto, eh? Sì, no, io ormai ho rotto il cambio. Ecco. Ho sbiellato l'altro giorno. Vabbè, grazie Leone, eh. Vabbè, grazie, puoi anche andare a casa adesso. Posso andare? Sì, prego. Comunque, un consiglio d'amico, comprati i profilatico in acciaio, vedi che duri forse di più. Dai, zitto, l'anonimato di me. No! Oh, io gli posso dire quello che voglio e Leone accetta. Prova. Appena dice qualcosa il mago Wender si incazza, guarda. Leone, fai schifo. No, che c'entra fai schifo? Bene, diglielo tu. Leone, fai schifo. Zitto, che stamattina la cicatrice ti ha messo in mezzo, non ti ha mollato. Ah, sottolineo che la cicatrice è la fidanzata di Wender, Sa cos'è? A proposito di marce, che le donne di Leone sono convinte che sia il suardese, invece tutte le volte è il cambio. Sempre una mangetta, faccio mazza tanto. Dai. Vieni a mangiare qui. È 7:46, stai zitto Leone. Questo è lo Zoo su Radio 105 con Mazzoli, il maiale eiaculatore precoce di Leone di Lernia, il mago Wender, Gibba e regia il venerabile Jimmy. Oh, attenzione perché adesso dobbiamo fare una pausa. Ci colleghiamo con la Bastard Inside Line. Sì. Ma tra poco ci colleghiamo per l'ultima volta con gli studi Bus del Q del teatro Moulinex. Dove appunto seguiremo diciamo così, l'ultima pillola del Festival di San Gimmi per sapere chi ha vinto. Chissà chi ha vinto. Allora ricordiamo: al terzo posto è arrivato Donatello, al secondo Maurilio, al primo chi sarà arrivato? Com'è? O Gilberto Penza o Fortunato Zanza con Dato Mollasole? Non lo so. Beh, vedremo. Dai. Intanto continuate a votare 02-655-1245 oppure tramite internet al sito internet www.survater.net. Ci colleghiamo con la Bastard? Dai, vai. Lo Zodi 105. Zodi 105 presenta Bastard Inside Line. Bastard Inside Line. Linea Bastardo Dentro. Bastardo Dentro. Allo? Pronto? Ma io credo di essere impazzito, non lo so, è colpa vostra, sono le 21:24 e io che faccio? Eh? penso a quelli dello zoo di 105. Pazzesco. Sono rincoglionito. E allora? Colpa vostra, bastardi. Cosa? Ciao. Ciao. Cos'è? Spider-Man, tu puzzi di brutto. Spider-Man, fai schifo così. Spider-Man, la tua ragnatela. Spider-Man, sì? Radioattiva, sei marcio, scorreggi e tutti muoiono. Ne fai una al limone e fai scoppiare, scoppiare tutto il Giappone. Ciao bastardi! Ciao! Spider-Man sotto. Ok, abbiamo capito. Leone, sei bruttissimo! C'hai una testa che sembra una montagna! Ciao, sono Marco Pannella, anch'io tra un cannone e l'altro ascolto Radio Radicale. Grazie, ciao. Salve! Se sei bastardo dentro, lascia il tuo messaggio bastardo allo 02 29 00 52 87. 02 29 00 52 87. Leo, ma vaffan. No! No! È cambiato, non c'è più quello di maglia. No! Noi ci fermiamo un attimo, probabilmente si fermerà per sempre Leone. Auguri, dai. Salve, arrivederci. Grazie. Venite grazie. Dietro di me? Venite. C'è il camion delle pompe funebri. No, sotto, ma dovete venire insieme. È arrivato, a me. Vado io lì, anche voi dovete venire. No. Torniamo tra poco. Oh, Maurilio. Buongiorno, Maurilio. Salve. Ascolti, non tenghi molti tempi oggi. Ma neanche noi per te, sai. Perché sto facendo le interviste che sono arrivati secondi. Ma tu sai chi è arrivato primo? No, non me lo vogliono dire la giuria. Ma come no? Scusa, eri lì. Tu, è una replica quella che stiamo mandando. Sono contenti di essere arrivati secondi. Sì, non te l'abbiamo chiesto però, Maurilio. No, un giornalista mi ha fatto la domanda. Fai. Sono contenti di essere arrivati secondi. Sì. A me non mi importavi vincere i festival. A te interessa solo una cosa, diglielo. A me mi importavi solo che il mio amore si facevi bombare da me. Ecco, ma la domanda è questa, scusami. Maurilio, l'hai bombato poi Wender o no? Perché è questo il dubbio. Ma detti che si facevi bombare alla fine del festival. Quindi aspettiamo la fine di oggi e poi domani te lo puoi bombare. Ha detto che nel dopo festival prendevi il pilloloni pure lui. No, no. E cosa se ne fa? Sì, con le spade giocavamo un po'. Stai zitto. Senti Maurilio, ti dobbiamo salutare. Tra poco ci ricolleghiamo col Teatro Mulinex di Grattosoglio per sentire chi ha vinto, ok? Adesso devi andare perché devi fare anche tutte le televisioni. Va bene, ciao Maurilio. Devo fare come Leoni di Lerni. Sì. Ciao amore. Ciao. Le 8 e 2 minuti, puntuali, eh? 105, 105. Attenzione, riparte il tanto atteso Jimmy Tour, il padre dei padri, fondatore dei fondatori, Jimmy, nelle piazze e città più importanti del mondo. Grazie Jimmy. Uno spettacolo di 8 ore per dire grazie al padrone della tua vita. Di grazie anche tu. Grazie Jimmy. Di grazie. Di grazie anche tu. Di grazie di cosa? Non lo so. Grazie di cosa? La tournée che si farà. Ma cosa? Lui va sul palco e tu gli devi dire grazie. Sì, barca. Lui sta 8 ore sul palco fermo. Fa prego. Eccolo, guarda. Prego. Cosa? Ragazzi, non disturbatemi che sto facendo le prove per il mio spettacolo. Sentiamo una battuta, dai. Prego. Che battuta è? Vuol ballare? Ah, bravi ragazzi, bravi. È peggio di Sanremo. Prego. Prego. Prego cosa? Prego! Prego! Prego cosa? Prego! Prego! Dai! Prego! Ah! Prego! Ma chi sarà te? Prego! Ah! Prego! Alzate le mani! Prego! Ma prego! Pugliatevi! No. Prego! Picchiatevi! Prego! No! Sputatevi in faccia! Prego! No! Una rissa scatenato! Jimmy! Ma una rissa scatena lei! Ah, che gran serata che è stata. Ma cosa? Mi ricordo è stata la mia prima uscita stagionale. Ah, bello! E mi ricordo che ho avuto un ascolto record in piazza. Sì? Quanti? C'erano 7.000 miliardi e 800.000 persone. Ma chi? Ma pensate, un furto, peggio di quelli di Leone, oh. In che piazza l'ha fatta? Una sera comunque, ragazzi, vi renderò partecipi, vi porterò con me a fare una serata. Ah. Ma che piazza era? Era la piazza di Scorcetoli. Questo file è stato scaricato dal canale Telegram Zoo di 105 Channel. Per altro materiale, cerca su Telegram Zoo di 105 archivio bot. Ieri siamo usciti dalla radio per una roba nostra, mi ha dato oggi è arrivato... No, Wender! È Wender, è venuto! Giba mi ha dato ragione! Leone mi ha dato ragione! Sì, sì, sì! Oh! Belli! Leone mi ha dato ragione! Non è possibile! Vabbè, insomma, facciamo una cosa, oggi metteremo il film Renze Stellari. Ouch. Non posso dire il motivo per cui mi ha dato ragione, sono stiamo qua due ore e mezza. Oh, mi porti via sta baranera cicciola. C'ha 42 di febbre. Chi? Lui. Perché mi ha dato ragione? 44, cioè. Minimo 66. 70 anni, cioè. No, no, stavolta è strano, è un miracolo, mi ha dato ragione. Mettiamo il lancio del film Renze Stellari, dai, andiamo. Tanto tempo fa, in una galassia lontana, lontana, lontana, lontana, lontana, ma lontana, ad Andria, in provincia di Bari. Una terribile guerra civile che vede scontrarsi le forze imperiali e l'alleanza ribelle imperversa nella galassia con lo scopo di evocare terrore ed eliminare una volta per tutti i suoi oppositori. L'imperatore Palpatina ordina lo sviluppo di una grande stazione spaziale capace di distruggere un intero pianeta. La Scoreggia Nera. La Scoreggia Nera. Nonostante la stretta segretezza del progetto, alcune spie ribelli riescono a rubare i piani della stazione e trasmetterli alla principessa Rosa. Sempre lei. Alla quale viene affidato il compito di consegnarli a Tato Skywalker insieme alla sua controparte C-3PO, che dovranno fuggire dal malvagio Lord Leon Fenner. Sono Tato Skywalker e sconfiggerò il male. Ma vaffanculo, cosa vuoi sconfiggere tu? Vatti a ubriacare. Sì, sì, sì, vado a ubriacare. Renze Stellari. Renze Stellari. Che lo sforzo sia con voi. Prossimamente su Canal Jimmy. Ma non vediamo l'ora, anche perché oggi non si sa ancora che ora manderemo, pensate, in anteprima mondiale Renze Stellari. Sarà un'evidenza, come si dice? Sì, con parole tue, Leone, dai. Un evidenziatore, dai. Trovare la parola giusta. Evidenziatore. Sarà una cosa fenomenale, sarà una cosa strepitosa. Puoi dire che è bella, Ah, scusi, è bella. Allora, è l'uomo più ignorante del mondo e cerca anche le parole difficili. Abitare. Ultimamente Giba, ha notato che si è rifatto il taglio di capelli alla Gianni Morandi? No, non l'ho notato, non l'ho visto. È una mucca di nuovo con Gianni Morandi in testa. Ah, sì. Ma sa perché? Perché c'è Sanremo. Ah! Lo vede che non coglie? Senta, allora, visto che noi l'altra sera abbiamo partecipato a questo nuovo programma che ha fatto lei su Canale Jimmy, si chiama Porca a Porca. Sì, con Bruno Piaggio. Esatto, che vagamente ricorda Porta a Porta. Assolutamente, lo legherei anche davanti alla Corte Marziale. Ma cosa, è uguale. Possiamo sentire il retroscena, cioè il backstage del programma? Allora, ci colleghiamo con il dietro le quinte perché abbiamo messo dei microfoni, diciamo così, che fanno capire un po' l'atmosfera che si respira prima della trasmissione. Diciamolo che solitamente così litigare in diretta siamo io e Leone. Strano, esatto. Perché non litighiamo mai io e Leone. Però di solito si litiga solo, diciamo così, in televisione per l'opinione pubblica. Certo. Ma in realtà dietro le quinte si è amici, insomma. E invece noi no, Neanche lì, ragazzi. Sentiamo. Aspettando Porca a Porca. Aspettando Porca a Porca. Collegamento con il backstage. cazzo vuoi, ciccione di merda? No. Ti spacco la faccia. E dai, appena andiamo sul palcoscenico, ti faccio un mazzo così. Che ti vado a seppellire al tuo paese, che è l'unico posto che rimane. Dai, zitto, va. Vieni fuori ma adesso. Ma cosa stai venendo fuori? Tu è con te, dove mi vergogno. Le non dire fuori. Intanto adesso vedrai, ci chiamano fuori, ti faccio un mazzo così. Stai zitto, che se chiama tuo padre, ti faccio annientare con la carta vetrata. Ma stai zitto, che sei sposato solo per interesse. Interesse, Leone di Lerno. Ma sei tu un interesse che non molli una lira nemmeno non a morire. Non spreco una parola, appena non ci chiamano fuori. Una faccio un c***o. A chi? A me? Non me l'ha fatto Totò Riva, lo fai tu a me. Stai zitto, annientatore di c***o. No, ti rendi conto? E questa è realtà, questa è la verità. È la verità. Dai, diamo spazio alla Carbone, la nostra. Non è Cisgatterun, Leone. Cisgatterun, Cisgatterun. Cisgatterun, Cisgatterun. Cisgatterun. Schiatta, schiatta un terrone. Tu, il più grande terrone d'Italia. Io. Eh no, io. Ma stai pazzendo. Senti, ha messo da Luke, è uguale. Ecco, vedi? È uguale. Sì, è un po' più lenta, Però sul computer non puoi velocizzarla. Quello è, dai. Uguale. No. Senti, Uguale. Sono bravi gli ABBA però, Ma chi ABBA? Sono i Roxette, Jimmy. Non sono gli ABBA? No, non sono gli ABBA. Eppure ero convinto che fossero gli ABBA. Ma lei era al corrente di questo articolo sulla Repubblica? Sì, l'ho scritto io di mia mano. Ma che cosa? Intervista Leone dalla A alla Z. Il mondo dell'artista pugliese inventore del trash è il più criticato ma anche il più imitato. Ma da chi? Da tutti. Ma da tutti. Chi? Allora, A come amore. Ormai, queste sono proprio parole sue. Senti, italiano. Ormai lo sanno tutti, l'amore è quello che è. L'amore per Leone di Lernia dura non più di 2 anni, 2 secondi. No, 2 anni, dai. Fa ridere, dice, ma è così. Se vuoi far vedere al mondo di stare bene, tu a tua moglie dovete fingere. Cosa vuol dire? Devi vivere così. Neanche no, loro sono riusciti a tradurre il tuo linguaggio. Aspetta, perché poi c'è una roba che mi fa ammazzare. Allora, vale. Aspetta. U come unico. Ti consideri unico? Non è per montarmi la testa, però è la verità. Se tu trovi un clone di Leone di Lernia, scrivimi che ti mando 50 milioni più a casa. Sempre uguale. Sempre le stesse risposte. No, ma poi sai cos'è la cosa? È che quando intervistano i giocatori, no? Sì. Di calcio, essendo per la maggior parte ignoranti, no? Sì. Modificano, diciamo così, il testo e poi riportano modificato il testo sui giornali. Invece lui il suo è talmente improducibile che non si può neanche modificare. Hai capito? Madonna. Poi il re del nonsense, lo chiamano. Volevo andare a Sanremo, ma Paolo mi ha segato, dice, poi a me Capone, finalmente qualcuno che dice la verità, ma quale verità? Poi è diciamo così un rappresentante del mondo della musica e quindi rappresenta anche un po' l'universo giovanile. Sì. Diamo il benvenuto al DJ fallito Marco Mazzoli. Grazie, buonasera signor Bruno, buonasera. Buonasera, si accomodi pure. Grazie, buonasera. Si accomodi, ecco la sua sedia. Grazie. Vada lì vicino alla nostra soubrette. Sì. Alla mia destra abbiamo, ecco, lo facciamo accomodare subito, un rovina famiglie, sì. Uomo che commercializza videocassette pornografiche, un uomo che ha fatto della pornografia il suo business e che comunque è riuscito lo stesso ad arrivare ad un certo livello nella politica italiana e quindi a livello europeo. Ma chi? Ecco con noi un ex cantante fallito, il DJ Leone di Lernia. Ma guardami, gorilla di ti andiamo a spaccare a questa vespa qua. Ma come si azzarda lei di dire queste cose? Si accomodi, sia calmo, il dibattito politico. Dibattito politico non è con me, ma è con il suo concorrente, diciamo così, che ha di fronte, quindi non è inutile che si scalda lei. Vada a lavare i denti, lei, presentatore. Ma di rispetto almeno per i conduttori. Ma stia zitta lei, brutto pidocchio. Allora, il suo avversario politico contesta il fatto che lei, diciamo così, fa contrabbando di cassette pornografiche. E diciamo così le riproduce nel suo ufficio, in via Bligny e quindi poi dopo le mette in commercio. È vera questa cosa? Vorrei prima chiedere al suo avversario, poi lei può replicare. Certo che è vero, questo è uno schifoso, un maiale, perverso. Sai cosa fa sta merda? Va in giro per via Turati a Milano, cerca di abbordare le ragazzine poverine che sperano di riuscire ad arrivare da qualche parte, poi le porta nel suo ufficio in via Bligny, se le bomba, si fa riprendere dal suo amico del c***o Tato, suo amico del c***o che vive con lui solo per i soldi, e poi stai zitto e poi vende le videocassette. Stai zitto, l'uomo della foresta solitaria, che tu e le bisce vai bene, proprio tu parla, l'uomo finito da 30 anni fa, che tu non potrai più camminare nel futuro, tu nelle fogne andrà a fare il DJ, stai calmo che c***o. cazzo di pecora. Stai zitto che ti hanno messo al mondo per sbaglio. Dovevano mettere un porco, hanno messo a te. Era meglio il porco perché tua madre. Ma fai affari. Ma mi scusi, mi lasci dire una cosa. Che continui a agitarti, che stai per morire, non vedi che sei già morto? Leone di c'hai, me. C'hai quel tuo amico del cazzo tato che viene in giro con te, ti prende le misure ogni due minuti perché stai Leone per morire. Stai zitto, sparitori di soldi di Radio 105, che sei l'uomo più il fregatore dei soldi. Stai, non hai mai lavorato un minuto in vita tua. Ecco, mandiamo un messaggio al pubblico, visto diceva, signori miei, mandiamo un messaggio alla popolazione, perché il dibattito politico è improntato soprattutto su quello. Vai, parla se sei capace. Vai. Signori, sì. Non fidate di questo lurido schifoso di Marco Mazzoli, non date mai un milione in mano perché non l'avrete più indietro. Questo qua c'ha addirittura i materassi, le camere da letto piene di soldi, di assegni a vuoto. Ma stai zitto tu, ma Claudio ladro, Claudio vieni qua, padre di Mazzoli, tu sei un ladro, stai tu rubi soldi, stai al presidente di Radio 105, sei un ladro, vai dove pisciano i cavalli, che tu fai prendo la birra dai pesci di cavallo, mi fermo, ti stacco la faccia, lasciami stare, ti stacco qui che faccio punta a bacio, lasciami stare, ho finito, sei morto, se non succhi la mia pelle non vai, la prossima settimana con Porca Porca linea al TG, linea al TG, ma cosa è vero, però dai, è tutto vero, soprattutto il lato che riguarda i film porno, quello è vero. Leone di Lernia commercializza videocassette, quello fai tu con la tua piscina, sì, assorta, ladro, e il dibattito continua anche in diretta per far l'amore con me, ma neanche per tutto l'oro del mondo. Stai zitto che tu con 3.000 lire, amore, cosa? Amore. Sì, amore, è un tac tac, fa un tac tac, no, con lui dura di più, è come accendere la luce, con lui dura di più, ma tu lo sai, secondo tu... me è il tuo sogno nel cassetto, quello di fare un po' di robe strane con me, eh? Vero, vero, no, dai, no, di la verità, dai, diciamo, siccome tu metti sempre la seconda faccia di fuori, no? Sì. Ma tu senti, tieni il giornale davanti alla bocca. Sì, il giornale ti prendo la bocca. Parla sì, davanti al, al giornale, così. Sai perché non sei abituato tu agli odori belli. Certo, Leone, perché io non ho una fogna di casa come ce l'hai tu. No, leggevo praticamente che c'è questa piccola polemica riguardo internet, perché ci sono 350.000 baby navigatori, dei bambini che entrano in internet puntualmente ogni giorno e rischiano di trovare siti porno, eccetera. Rischiano. Libero accesso a qualsiasi sito. Okay. Tra l'altro, soprattutto da quando qualche infame si è divertito a inventare, a registrare dei siti che rispondono al no. Provate. www.marcomazzoli.tart.com e ti porta direttamente in un sito porno. No, siete dei bastardi, ma veramente, oh. Stessa cosa vale per Wender, grazie, per Gibba, per Leone, e così via. Ma io non ho parole, veramente. Sì, in effetti dovrebbero mettere forse una parola chiave o qualcosa che, insomma, non permette ai bambini di entrare nei siti porno. Ma una poi... scheda come il Bancomat che lo puoi, te lo danno solo se sei maggiorenne. Una cosa del genere, perché a volte veramente per sbaglio clicchi e entri dentro il sito porno, ti trovi dei robi grossi così, un bambino. Mamma, cos'è quello? Il papà non ce l'ha così. Gli crei anche dei disguidi mentali, poi. Il fatto è che i bambini sanno entrare in questi siti, no? Sì. E i genitori che non capiscono tu, niente. Tu che non sai neanche cos'è un videoregistratore. Ma io non vado nel sito, no? Vado in camera da letto. Cosa? Che deficit. E c'è l'antenna del palazzo in camera da letto. Ce l'ha incollata all'armadio, vi rendete conto, con lo scotch. Stai zitto, tu stai. Cosa? La vuoi smettere? Uomo senza indirizzo. Cosa? Vabbè, facciamo una pausa, noi torniamo tra un istante su 105, fra poco. È più facile raccogliere il brodo con la forchetta che accontentare sempre il tuo datore di lavoro. È vero, è vero. Questa è una scritta per noi. Le 7.26, questa è Radio 105, buongiorno Italia. C'è il Mazzoli, il mago Wender, Leone di Lernia, Ziba in regia. Il venerabile ancora dorme stamattina. No, venerdì, no, venerdì. Però attenzione, noi amiamo sentire quello che pensano i nostri ascoltatori. Abbiamo ideato la Bastard Inside Line apposta per farli sfogare. Però abbiamo anche un inviato speciale, Leone di Lernia per le strade di Milano, vai. La Einstein Production, in collaborazione con la Pirandello e la Grande Erga Corporation, vi offrono la Cool Turato. Sì, la Cool Turato. Viaggio alla scoperta della cultura dell'italiano medio. La Cool Turato. La Cool Turato. Sentiamo quali domande geniali ha fatto Leone alle persone in giro per Milano, vai. Pronto, uomo secco. Non capisce che non registro un cazzo. No. Senti a Leone, questo mini disco. Mini disco. non serve a niente. Ogni volta che facciamo l'intervista, parla, parla e non so se niente. Parla italiano. Lei di dov'è? Io di Vinita Cina. Vinita c'è? Cina, Cina. Ah, Cina, Cina, Cina. Quindi lei è nato in mezzo a un cespuglio. Non capito. Lei è nato in mezzo a un cespuglio, dico in mezzo a una campagna. Non capito, veramente. No. Quest'anno a lei, lei sopporta, lei le piace il Festival di Sanremo? Sì, questa è cantare canzoni, no? Sì, sì. Tu sai cantare? Gli italiani no. In cinese, la sa cantare in cinese? Sì. Fammi sentire. Uliu liu di hei yen zu. Alla picca lusa un liha, la capa tosta. No. Quante volte al giorno fai la mole? Io, questa non può dire, per cinese è molto importante, non può dire questa. Quanti anni c'hai? Io 33. Allora fai l'amore 10 volte al giorno. Tu fai l'amore con le donne o con gli uomini? Io ce n'è uno nel ristorante. E vai a dove fai l'amore? Sotto là? Ah, ristorante? Là nel ristorante. Come ti chiami? Antonio Zao. Ciao a Zao, a Zao, a Zao. Oh, apri gli occhi, oh. Mi scusi, dottore, lei sopporta ancora il Festival di Sanremo? No, mi fa schifo, non lo guardo neanche. Raffaella Carrà. È per quello che non lo guardo. I 24 miliardi che spenderanno per Adriano Celentano su Rai 1, è giusto sì o no? No, sono troppo. 24 miliardi per Adriano Celentano. Adriano Celentano. 24 miliardi, oh, ma siamo matti. Per 4 puntate. E appunto. Ma no, spero che se li porti tutti nella tomba quello lì. No. Scusi, lei a mai. A, allora. Oh. Lei ha mai preso. Scusa, lei ha preso mai il Viagra? No, no, mai, perché io non ho bisogno, sono una bestia, sono un toro. Ma cosa? Era la Culturato con il nostro inviato speciale, il puzzone leone di merda. Di Lernia. La Culturato. La Culturato. Se anche tu vuoi porre delle domande al prof di Lernia, faxaci allo 02 655 1245. 02 655 1245. E attenzione, perché tra poco ci sono le news con... Non c'è la carbone, no! Oggi, no, c'è il caro Sala. Uno che non si sente che è romano. No! No! E poi tra poco ci colleghiamo anche con Survater. A Super Classifica Zoo, una nuova schifezza di Leone di Lernia. Pappagallo, papparuolo. Sino pappagallo, pappagallo, papparuolo. Cos'è? Sino pappagallo, pappagallo, papparuolo. Sino pappagallo, pappagallo, papparuolo. Hey! Suoni bene. Cos'è, buon tempi? Si spera. Con tempi si spera. Non l'ha capito. Ma no. Vai! Sei un pappagallo, pappagallo, papparuolo. Sei un pappagallo, pappagallo, papparuolo. Non mi arrendevo. È in battaglia lui. Lui non vive, lui è in battaglia. Sentiamo un pezzettino. Dico tante cose, mo. Sì. Non me ne frego. Prendevo tanti schiaffi. Non mi arrendevo. Mi mandavano a quel paese. E pure allora dicevo che so cantare. Fatti sparare. Ho parlato pure con la garra. Ma va a cagare. E la rosa mi diceva: tu non mollare. Devi fare questo mestiere. Se vuoi campare. Sapevo che era dura. Ma ce l'ho fatta. Sì, un pappagallo, pappagallo, papparuolo. Ce l'ho fatta cosa? Sono arrivato, no? Ma dove? A Cimitero! Sono arrivato! Senti l'altra strofa che sì, sentiamo qua sullo zoo, sentiamo. Dai un pezzettino, dai qua. Madonna mia! Ha fatto un album nuovo, ti rendi conto? Eh? E i soldi? I soldi! Li chiamerà sul water! Stai zitto! Senti qua! Combatterò ancora! C'hai 90 anni! Mi bacio tutti quanti, sì. Lo dici tu, con gli LP che ho fatto, sono tutti falsi, mi mandavano a quel paese, eppure allora, la radio con Mazzoli fa vomitare, se prendi i soldi in mano, non te li dà, dallo zoo di 105 ci cacceranno, e a lavare i vetri ci manderanno, fino a papparà. Dai, un assaggio del nuovo disco di Leone. Bravo, Leo! Bravo, amore! Yeah. Intanto mettiamo un disco nuovo vero, si chiamano The Bubba Victims, questa è Sexy Eyes. Possiamo dire cosa? Che anche il sedere ieri sera di ancora Mazzoli, è vero sulla terza rete blog. Sulla terza rete, sulla Rai 3 si chiama. Rai 3 si chiama. Ieri sera ero sul divano a casa, sai, tutto scazzato, stanco, e va, accendo la televisione. Vado su Rai 3, parte la sigla e sento il Grande Fratello, no? Dico, come il Grande Fratello su Rai 3? Invece era Blob, parte Blob, poi fanno vedere quel programma ignobile che ha fatto Costanzo su Italia 1, il Grande Amici. Fratello VIP, e poi a un certo punto fanno un primo piano di Costanzo, no? Sì. Dentro questo appartamento finto, e Pino Insegno dice, ecco, come facciamo noi col mondo animale? Il Costanzo nasce nei prati di Roma, eccetera, eccetera, boom, cambia scena, c'è il mio culo peroso, e poi... Panzone! Panzone! Panzone! Su pezzo di panzone! E alziamoci in piedi, arriva il nostro padrone. È vero, è vero, è vero, è vero, è vero, è vero, è vero, è vero, è vero, è vero, è vero. Venerabile, mi scusi, oggi la pressione è bassa e non riuscivo a cantare. Svengo se canto. Non eravamo pronti. Perché, sai perché? Perché non mangia abbastanza zucchero. Ha ragione. E dovrebbe nutrirsi un po' di più con lo zuccherino. Ecco, mi dia un consiglio. Cosa potrei prendere per alzare la pressione? Lo so io cosa potrei prendere. No, quello non ha zucchero, ma è salato. Ah, quindi lei mi vuol dire che ieri sera è andato su Rai 3 il suo culo? Sì, esatto. Ah, ma allora ieri sera era proprio un vizio. No, ma tutte le sere mi sa che va in onda. Sì, ma ieri sera era in piedi delle televisioni. Di cosa? Su Rai 3 c'era il suo culo. Su Rai 2 c'era quelle facce da culo dei giocatori di Inter. No! Jimmy, ma lei era interista, mi scusi. Assolutamente, mai. Non mi è mai piaciuto il pallone. Sì, certo, mai. Comunque, complimenti ancora. Come mai nel suo ufficio ha sempre la Gazzetta dello Sport aperta? Ma così perché leggo il fantacalcio. Perché oggi è venerdì e bisogna dare la formazione. Ha ragione. Comunque non siamo qua per parlare di Nezzi e di sederi vari. Esatto. Ma siamo qua per parlare del programma innovativo del 2001. Il grande Survivor, pensi, io continuo a leggere brutte robe su Survivor, quello di Italia 1, la brutta copia, mentre Survivor sta facendo ascolti da record, davvero. Ma lei sa benissimo. Grazie. Ma è vero, eh? Applauso, ragazzi. Bravo, Jimmy. Sapete bene voi, ragazzi, sì? Che per ogni programma che cala d'ascolti ce n'è qualcun altro che aumenta. Assolutamente. E quindi voi direte, dove vanno a finire tutti i telespettatori che non guardano Survivor? Sì. È perché hanno comprato l'abbonamento a Canal Jimmy. Ah. Che vi ricordiamo è gratuito e in più vi vengono regalati 500 milioni. Ma cosa? Quindi voglio dire, mi sembra anche giusto che gli ascolti aumentino, diciamo così, a vista d'occhio. No, si rompe l'occhio. Hai capito? Ci colleghiamo allora? Tutto questo per dirci che ci colleghiamo con l'isola di Survivor. Benissimo, sentiamo, prego. Arrivederci. Salve. A Survivor con 0335 71 16 491. Il nuovo servizio G-Battle per ascoltare Leone di Lernia mentre si bomba una Minotaurus. Il servizio dura 2 secondi, come la sua prestazione. La Mettimi a Cane Film, in collaborazione con la Scalda Maori Production, presenta Survivor. Survivor. Survivor. Survivor. I giorni passano e le due isole di Survivor nei mari gelidi di Crato Soglio ogni giorno ne vedono di tutti i colori. Tutti i colori. Gli uomini sull'isola di Kula iniziano a patire la fame in maniera spaventosa. Survivor. Oh, tata! Dimmi, Leo. Oh, guarda che cocco. Ma quale cocco? Lo vedi, quella è un'anguria. Ma stai zitto, questo è un melone, guarda. Ma allora gli occhiali non ti servono proprio a niente. Quella è una sgattare a morto. Quella è una sgatta a morto. Chiedono chi te è morto, non è sgatta a morto. Sgattare a morto. Ma quando vuoi scartare a morto? Che cazzo è su sgattare a morto, che non sai nemmeno che cos'è su sgattare a morto? Questo è scemo, non capisci niente. Leone, è un frutto pugliese. Ma sì, frutto pugliese. Ma te lo metti in bocca a te, tu frutto pugliese. L'enorme frutto non era né un cocco né un melone e nemmeno una sgattaregna morta. Ma una velenosissima bacca di Arreus. Una bacca ricca di siero molto pericoloso che causa una sciolta acuta interminabile. Madonna mai! Guarda lì sull'albero! Madonna, che bel frutto! Oh! è una ciliegia gigante quella lì. Guarda, che bello! Non me la mangio, non me la mangio. Uno. No, aspetta, non. Un uccello grosso mia. Finalmente. Il Dilernia si getta sulla bacca, inconsapevole del veleno che si trova all'interno. Questa volta la sciolta è dietro l'angolo. No! La sciolta è dietro l'angolo. No. Madonna! Madonna mia, un gabinetto! No! Non ce la faccio più, non ce la faccio più! La diarrea! No. Tato! Dimmi, Leone! Che miseria! Che è successo? Mettimi un tappo dietro! Mettimi un tappo che non ce la faccio più! Sì, col cavolo che ti metto il tappo a te! Io. Possiamo fare il bagno? Zuffa, no. Zuffa! Bastardo che non sei altro! Quando c'ho bisogno di te, non mi aiuti mai! Sei un deficiente, sei! Leone, ricordati, guarda! Ricordatelo veramente, a me mi interessano solo le sold. Leone, mi interessano solo le sold. Belli amici che c'hai, Leone. Lo so, questa è una carogna, Pensa, ti costa 3 milioni 4 al mese. Oh, e quando hai bisogno d'aiuto lui non c'è mai. Niente, lui pensa solo alle sold. Lo so. Oh, vai a fare il GoPro. Cosa vuol dire? Vai a lavorare alle cave. Ok. Sai cosa penso a volte? Dica, Jimmy. Mi pare quasi che sull'isola siano rimasti solo loro due. Anche secondo me. Perché non si sente mai nessun altro. E questa è una cosa che non mi spiego. Probabilmente sai cos'è? È che loro fanno più ascolti degli altri. Quindi li inquadrano molto sono più spesso. Sono i taricone, no? Della situazione. Bravo. Sì. Vincenzo Giannatempo, 27 anni. Sono svariate le attività svolte dal Gian. 5 con Mazzoli, il mago Wanda. Chi fa regia? Poi chi altro c'è? Nessuno? No. Ma siamo solo noi? Ah sì, le tue morroidi? Le mie morroidi? Beh, quelle stanno bene. Anche le mie, scusami. Anche le tue? Basta, siamo soli, no? Sì. Ah no, c'è il cadavere qua di fianco. Ma poi c'è lui! L'Italia si alza in piedi e canta con noi l'inno del venerabile. È vero, è vero, è vero, è vero, è vero. È vero, è vero, è vero, è vero, è vero, è vero, è vero. Sai che fa strano avere Cavour a proprio fianco? Buongiorno. Buongiorno Cavour. Oh, io non capisco una cosa, no? Sì. Buongiorno venerabile. Ma scusate, ma tutte le mattine il parroco a chi è che viene a dare la benedizione? A questo qua di fianco a me. Al cadavere, al cadavere. Ah, perché non sconosce l'orario. Esattamente. Non si sa ancora bene quando. Ma è lì, Perché sono un parroco io stamattina. No, tu sei morto. Sei morto. No, siete morti voi. Lo devo sempre dire. Leon di Lenni è vivo. Dalla nascita io vivo. Beh, ci mancherebbe. Cosa vuoi nascere? Dalla morte sarà un po' difficile. I giovani che non reggono. I giovani, non vanno avanti. Stai zitto. E con questa frase, i giovani che non reggono, ragazzi. Sì. Buona settimana, ragazzi. Grazie, buongiorno, venerabile. È giusto, avete passato un buon weekend? Sì, abbiamo lavorato. Com'è andata? Avete spalato la neve? Ma chi ha spalato la neve? Non dovete andare a sparare la neve? No, abbiamo fatto la serata, Jimmy. Ah, scusate, avevo capito che il sindaco mi aveva chiamato per un altro motivo. No. Ah, no, scusate. Lei che invece cosa ha fatto? Io sono stato dell'isola di Bora Bora. Sì, avevo un appuntamento di lavoro. Sull'isola di Bora Bora? Sì. Anche lì. Con il ministro degli interni. Molto interni, Sì, e della sua. Scommetto che era il ministro degli interni e esterni. Interni e esterni, interni e esterni. Lei non ci penserà, ma il ministro mi ha paccato. No, come? No. Sì, mi ha paccato, ma in compenso c'era sua moglie. No, lui niente. Senta, cosa facciamo? Ci colleghiamo con l'isola delle Sorbate? Con le Sorbate, perché ci sono nuovi fantastici aggiornamenti dall'isola. Sì. Su questo programma che diciamo sulle reti Mediaset vedono in 4. Sì. Ma sulle reti di Canal Jimmy vedono in 4.000 miliardi di milioni di miliardi di mila miliardi di milioni di miliardi. Sì, scusa. Scusi, è un piccolo gesto a suo favore. Dai, sì. No, agli altri. Oh, bravi, dai, colleghiamoci con l'isola. Andiamo, andiamo. A Surbatter con 0335 71 16 491. Il nuovo servizio G-Batel per ascoltare Leone di Lernia mentre si bomba una Mignotaurus. Il servizio dura 2 secondi, come la sua prestazione. La Mettimi a Cane Film, in collaborazione con la Scalda Maori Production, presenta Surbatter. Surbatter. Surbatter. Survivor. Sono due le isole di Survivor. Kula, l'isola degli uomini, e Kakoto, l'isola delle donne. Una distanza incredibile le separa, 10 metri. Ma cosa? 10 metri. E la fame e la sete sono gli incubi principali dei 16 naufraghi. Madonna, c'ho fame. C'ho una fame da morire, ho fame. Ecco. Non vedi che me ne stavi in Corea a farli morire? Ho fame, c'ho fame, c'ho. Leone, ce l'ho io un bel cocco. Ma quale cocco, scemo? Ho fame di sesso io. Leone, ci sono qua io. Io ti sai che ti amo, che ti voglio bene. No, vieni qua con me. Ma tu? Tu sei ricchione, voglio quelle belle, quelle profumate, affusolate, quelle che c'ha la quinta misura, scemo! Sì, sono ricchione, dammi una rosa, vedi come sono ricchione. Stai zitto, che a te se non ti vengono dietro le cose dei cavalli non cambi bene. È incredibile come i partecipanti si siano affezionati alla propria squadra e come portano alto il nome della propria isola. Sono orgoglioso! Sono una culo! No! Ah! Aspio, tu, mi sto sbagliando. Sono un culo! No! Mi stiamo andando male! Ma guarda, ma... Ma sono culo o cula? Culo? Ma meglio cula! No! Che c***a! Ma il continuo sbandierare la passione per la propria squadra a volte causa dei piccoli disguidi. Sono culo! No! Culo! Culo! Sono culo! L'avevo sempre pensato che eri così. Chi sei tu? Io l'avevo sempre pensato. Sei tu che non te ne eri convinti. Ma chi sei? Che cosa vuoi adesso tu? Vieni. No, ti prego. Hai detto tu, eh? No, quello tuo no. Non sono culo, ti prego, non sono. Ti è piaciuto, eh? Ma anche te, Leone, scusami. Vabbè che l'isola si chiama Kula, ma sono una Kula, sono un culo. Non si capisce, è una mezza. Tu non sei, ma tu non sei né culo né Kula. No, io sono. Tu sei una merda, è diverso. Sei una merda. Gibba, per favore, chiudi sto telefono. Pronto? Pronto? Pronto? Cos'è? Oh, pronto? Pronto? No, pronto? Pronto? Ma chi parla? Sono Al Capone. Signora Al Capone, buongiorno. Le sembra il caso di chiamare e ruttare? Ascolti un attimo. Signor Capone, sono arrivato alla conclusione. Sì? Che è meglio morire che vivere. Perché? Perché ci si stanca di meno, va? Ma cosa sta dicendo? Provi lei ad alzarsi al mattino con un grappolo di emorroidi da 50 kg. No! Va. No! E poi dicono sempre che quando arriva il corvo vuol dire che la morte è dietro le spalle. C'è il corvo lì! Allora aspetti un attimo. Prego, lo mandi via, lo cacci! Ma non così! Signor Capone! Signor Capone, allora, vediamo di spiegare bene. Lei si trova in quale galera, in quale carcere? Ad Alcatraz. Ma Alcatraz è un carcere chiuso da un sacco di... È un carcere chiuso, sì. Cosa ci fa lei lì dentro? Non c'ho voglia di andare via perché il corridoio è lungo, minimo 400 metri. E allora? Se li faccia lei, vai, 400 metri. Con emorroidi. Con emorroidi, non lo ascolta. Sì. Adesso, visto che lei è alla radio e dovrebbero sentirlo tutti quanti, sì? Voglio mandare un messaggio d'amore. A chi? Alla mia vecchia sciacquera. Alla sua vecchia fiamma, vorrà dire. Sì, la mia vecchia fiamma so io chi era. Comunque. Che cosa? Si chiamava Anita lei. Anita? Sì, cioè Anita. Vuol dire che un uomo così crudele come lei, signor Capone, è stato innamorato? Sì. Ah. Anche i cattivi si innamorano. Ah, che romantico. Comunque le leggo un attimo la poesia. Ha scritto una poesia? Sì, cioè, ci ho messo 3 anni, eh. Ma 3 anni? Provi lei a scrivere con le unghie, va, che non c'è neanche una birra. Dai, sentiamo, su, c'ha una base adatta? È questa che c'è, va bene. Ti ho visto crescere. Ti ho visto piangere, sì. Ti ho visto mangiare, bere e sparecchiare la tavola, piangere davanti al lavastoviglie che non funzionava, sì. E io picchiarti a sangue. No. Ti ho visto fare l'amore. Con chi? Sì, ma con un altro. No! E quindi? E quindi io non tengo rancore. Bravo, è così che si affronta neanche le cose. Neanche nelle tasche. Neanche nelle tasche, sì. E quindi voglio dirle a questa donna. Di cui è ancora innamorato, immagino. Per forza. Una cosa d'amore. Sì. Incredibile. Bravo. Puttana. No! Pronto! Signore Capone! Ha preso anche la rincorsa! Pronto! Pronto! Ma guarda te! Io la mattina ho sempre un sacco di cose da fare. Immagino, lo sento tra l'altro, eh? Lo so. Ha un sacco di cose da fare, si sente. Cosa sta organizzando lei in questo momento, per esempio? Pensi che io ho un asciugamano per il sudore per ogni giorno della settimana. Ma cosa? E dove se lo porta, mi scusi? In macchina? Sì, perché io lavoro in tutti i momenti, no? Certo. E ora mi devo asciugare il sudore, capito? Che mansioni sta svolgendo in questo momento? In questo momento sto facendo da cavia ad un esperimento, diciamo così, sessuale. Strano! C'è un andrologo qua che mi sta guardando perché studia le posizioni dell'amore. Ma cosa? E siccome sa che io sono, diciamo così, parliamoci chiaro, ragazzi, un toro da monta. Ma la finisca, venerabile. Adesso devo andare, scusate. Sì, prego, io volevo salutare Riccardo dal Cagliari. Buongiorno, andate a fare in culo, pezzenti. Grazie, grazie amore, grazie. Bello svegliarsi così. Sì, sì, grazie. Poi ieri a Blob ho visto un culo peloso con la caverna aperta che cantava con Leone, Ritu Mazzoli. Che schifo, Pier Giacomo. Sì. Poi un altro, ieri a Blob abbiamo visto il culetto di Mazzoli. Complimenti alla mamma, tesoro, è davvero un gran fondoschema a cosa, fa schifo. Un bacio sul naso, Paola da Squinzano in provincia di Lecce. Ci vuole un barbiere dietro a quel culo. Stai zitto. C'è un culo pieno di peli. Ma ce l'hai bello tu che sembri un cinghiale. Un cinghiale, Leone, ce la punta. Dai, non lo bello. Ma finisce. Quello è l'unico culo con gli occhiali. Stai zitto, pianterreno. Spiegami adesso cosa vuol dire pianterreno. È un piano terra, vedi, lui è sottoterra. Abita sottoterra. E allora è una cantina, non è un pianterreno. Ma più che cantina è una buca morta. Ma cosa? Io volevo salutare Fede. Ciao amore, un bacino. Sono le 7.48. Noi tra poco giochiamo a un gioco nuovo perché la radio non poteva sotto Sanremo non regalarci un gioco incredibilmente bello. Dopo il 105 Pitagorico che ha vinto numerosi premi come il Brit Award, Music Award, MTV, Ciucciami Award. Ha vinto anche premio della fisica. Esatto. Sì. Adesso hanno inventato in occasione di Sanremo Sanrebus. Bravo. Io un po' mi vergogno a giocare a questo gioco, ma lo facciamo perché abbiamo un contratto, se no non lo faremmo. L'ascoltatore deve fare un pronostico su Sanremo e indovinare i primi 3 classificati. Ah. In palio ci sono il CD di Ricky Martin, il CD di Eminem e c'è anche un viaggio per il vincitore finale regalato dalla Svinutur. Lei è veramente un genio, mi ha rubato le parole di bocca. Quale bocca delle due, scusi? Quella sopra. Sopra, quella al primo piano. Arrivederci. Salve, a dopo. Salve. Questo file è stato scaricato dal canale Telegram Zoo di 105 Channel. Per altro materiale, cerca su Telegram Zoo di 105 archivio bot. Categoria, diciamo così, dedicata ai VIP. Agli uomini VIP. Agli uomini grossi, sì. E quest'oggi partiamo con un concorrente che naturalmente tutti aspettavano. Sì. Tutti avevano già sentito. Sì. Si chiama Maurilio. Sì. Il suo pezzo si chiama Wendy. Ed è praticamente destinato a scalare tutte le classifiche mondiali. Ma sì, l'abbiamo già sentito. Questo è il primo concorrente che si è esibito ieri sera. Sentiamo. Ancora. Madonna. È per Messi. Ah. Ho aspettato tutti i laviti per cercare l'anima gemelli. Sì. Ce l'avevi vicino a me. Era lì, era Wendy. Era Wendy. Mi dicevi son fidanzati, ma io non ci credevi. Mi son presi il pilloloni e l'ho bombati con passioni. Era Wendy. Wendy. Questa canzone tra l'altro è dedicata al mago Wendy. È dedicata a me, sì. Amore. Sono veramente gentile. Sei contento? No. Come no? No, perché poi no. Mi devo fare bombardare no. E non mi va. Lui, no? Jimmy, tra poco sentiamo. Poi sentiamo anche gli altri due occorrenti, sì? E poi vi daremo tutte le coordinate per votare anche per voi da casa. Almeno, così almeno diventerete protagonisti e potete votare anche voi il vostro cantante preferito di Jimmy. Lei non ha avuto un super ospite come, che ne so, Mike Buongiorno in studio? Sa chi ha avuto? Chi? Pronto! Pronto! Che diciamo così, al quale è sfuggita la vittoria finale per un... Un soffio, un soffio. Sta parlando di Rocchettino, bravo. Giusto? Questo ragazzo si ripresenta quest'anno con una canzone d'amore, sì? Un po' polemica, sì? Nella quale praticamente cerca di far capire il motivo per il quale l'anno scorso non ha vinto al festival. Ah, ho capito, sì, lo sì. Lo sentiamo. Sì. Lo sentiamo, si chiama Rocchettino, la canzone si intitola? La canzone si intitola La giuria era pagata. Ma cosa? Sentiamolo. L'anno scorso sono venuto al festival per vincere, Tecno. Per vincere, per vincere, per vincere, per vincere. E allora cosa sono venuto a fare? La giuria era pagata. L'ho scoperto dopo. Eminem di San Jimmy? Sì, quest'anno ho voluto fare una cosa un po' più alternativa, con una base un po' più alternativa. Abbastanza. Però c'è da dire che non critica nessuno. No, mai. Un po' come lo Zoo che non critica mai nessuno. Mai. Bravo. Festival di San Jimmy. Festival di San Jimmy. Festival di San Jimmy. In esclusiva su Radio 105 e in contemporanea su Radio Jimmy Network. Allora ragazzi. Nella buongiorno. Salve ragazzi, come state? Bene, lei? Bene. È morto mago? No, stava starnutendo. Purtroppo non possiamo. Per un attimo ci ho sperato, No, poverino. Allora, dai. Senti, ragazzi, scusate. Sì. Quest'oggi abbiamo, diciamo così, la seconda giornata del festival. Com'è andata ieri sera? Molto bene, abbiamo fatto 6.000 miliardi di milioni, sì, di 3.000 miliardi, sì, di ascoltatori. Quanti pianeti seguono questo programma? O perlomeno Canal Jimmy? Ma qua si parla di galassie, non di pianeti. Di galassie. Più o meno, calcolando che un buco nero si è mangiato la galassia di Andromeda l'altro giorno, sono praticamente, le galassie sono più o meno 724. Ah, anche noi, ma mi spiega, un buco nero. Sì, sì, anche noi abbiamo un buco nero enorme, quello di Leone. No, più che altro mi domandavo quanti ponti ha, quanti ripetitori ha lei in giro per le galassie? Guardi, è un po' difficile fare il calcolo a questo punto, sì? Perché sono diventati talmente tanti che non si riescono più a contare. Ma cosa? Sono diventati incalcolabili. Sì. Quanto spende di corrente al mese? Ah, io? Gratis, è gratis. Sa perché? Perché? Perché mi sono attaccato al contatore di uno che abita qua in Brera. No! Per questo ecco perché mi arrivano 3 milioni e mezzo di corrente. E quindi alla fine non spendo niente. Hai capito? Comunque, ragazzi, Madonna. Oggi è una giornata particolare perché ci sono un po' di big dig. Big dig, sì, sì. E un po' di nuove proposte. Bene, chi sentiamo? Sentiamo prima un big dig. Un big dig, sì. Lionel Lerch. Chi? Lionel Lerch. È duro da dire. Lerch. A me ricorda Lionel Richie, no? No, è uno che, diciamo, prende spunto da Lionel Richie, sì? Ma i suoi testi sono molto più impegnati. Sentiamo, dai, una canzone nuova, dai. Festival di San Jimmy. Festival di San Jimmy. Festival di San Jimmy. In esclusiva su Radio 105 e in contemporanea su Radio Jimmy Network. È una base di Michael Jackson. sarà un caso, no? Eh sì. Sono figlio di Narduccio, no, un cantante troppo ciuccio. Per guadagnarmi la pagnotta, faccio tanto di quei chinotti. No! A 18 anni ero bello, ma non mi cresceva mai. No! Sono pure un travestito, bello, ma però non son gradito, però qualcosa devo fare e nel c***o devo, no, per tirare a campare, no. Ma che vita è questa qua? Ma andate tutta a cagare, dai. Ma guardate un po', devo fare travestito per poter mangiare. Io non so più come c***o fare, e la gente non vuol capire. È che qui se muore, se muore, e ma va a non c'è neanche il ritornello. E beh, cosa bella, vuoi, ma però, cosa? Guarda che questa è più bella di Sanremo. Ma no, stai, no, questa qua è più bella di tutte le tue canzoni che hai fatto. Sì, ma è vero. Da un testo. No, no, non sto dormendo, sto andando al lavoro. Ah sì, con sta voce qua? Ah sì, siamo io a lavoro posto. Per una delle più grandi multinazionali, per Jimmy. Ah, per Jimmy lavori? Certo. Quale? La Sofoco? La Sofoco? La Susanna Corpocereston, sono la gente al reparto a Drizza Maori. No! Sì. Senti, tu sei di Grosseto, giusto? Eh sì. Lo sai che venerdì siamo lì, tutto lo zoo al Forrosi? Ma non me le può fregare di meno. Ah, bene, brava, così ti voglio, amore. Brava. Che volete venire nel reparto? Nel reparto quale? Radrizza Maori? Certo. Ascolta, ti mandi al Leone, lui è un esperto in radrizzare Maori. Si fa pagare poco, 50.000. Senta, sorella di Amanda Lear. Sì? Amanda Lear un corno. Beh, con me, se vengo io, guarda, ti diverto un casino. Ma cosa vuoi divertire? Infatti, a raccontare barzellette. Sì, infatti. A fare i graffi. Ma che graffi? Ma stai zitto, ascolta, amore. Per lui è grasso. Amore, dimmi, caro. Ascolta, devi darci il tuo pronostico su Sanremo. Chi vince secondo te? Chi arriva secondo? Chi arriva terzo? Dai. Visto che ormai su musica, su tutto musica, hanno già messo la foto di Giorgia. Di Giorgia, quindi si sa che vince lei ormai, come tutti gli anni. Dai. E chi è? Giorgia chi è? È una nuova, una ragazza nuova. Sì, piccolina, per 15 con anni. Con le tettone grosse? Con le tettone, però è basta, è una tetta con le scarpe. Ma infatti, ora ultimamente. Amore, ci dai sto pronostico? Ti ho un po'. Allora, Elisa. Elisa, sì. Un po' strana anche quella. Vai. Giorgia, perché Giorgia. Giorgia. E poi a Gianni Bella perché gli rimane poco da vivere. Poverino! È vero! Ma è vero, lo dicono tutti. Gianni Bella, va bene. Ci dai anche il pronostico su San Jimmy? Ah sì, quello lo sento sempre. Allora, puoi scegliere tra Maurilio, Fortunato Zanza, Gilberto Penza, Rocchettino, Donatello, Vincenzo Giannatempo o Lionel Lerci. Allora, Lionel Lerci, ho sentito la canzone stamani, troppo bella. Bella, quindi diamo un punto a lui? Certo. Ok, basta? Secondo chi arriva, secondo te? Ma le sorelle perverse. Le gemelle perverse, ok, che non si sono ancora sentite. Le gemelle un po'. Beh, già il nome ti acchiappa, vero Samantha? Certo. Amore! Dimmi. Ascolta, chiami tutti amore. Ma che ne so, perché mi piace. Ma anche gli uomini, ma lui è un po' biave di vivo. Ma sono tutto, io attacco da tutte le parti ormai. Ma fai bene. Samantha, ci vediamo a Grosseto. Ciao amore. Ciao tesoro. Ciao, passiamo a casa tua, 50.000 a testa. Sì. Ciao amore. Ciao, ciao. More music, più musica. More music on Radio 105. E oggi non sveliamo il plagio di questa canzone. No! Perché noi dello Zoo di 105 non siamo dei gran figli di Susanna. No! Il nuovo di Sottotono. Da San Jimmy o Sanremo? San Jimmy, no, forse Sanremo. Sanremo cos'è? Ah, Sanremo è quella roba piccola che fa sulla Rai. Sanremo.